entrato nel chip. Non so come ho fatto. Sono computerizzato. Fagocitato. Sono entrato nel chip. Nessuno mi toglie. Sono entrato nel chip. Nessuno mi toglie. Quante piste che ci sono qua. Adesso mi connetto e comunico con te. Materiale semiconduttore che c'è qua. Ho il brivido nella schiena a tutta velocità. Adesso che sono dentro io mi divertirò. Tra un relè e un altro io salterò. Adesso che sono dentro mi farò il bagno nello stagno. Gocce di stagno. Nel chip, non so come ho fatto. Il mio DNA ora ha 12 eliche. La mia frequenza energetica è aumentata. Niente più cibo, solo luce ed energia. Quante piste che ci sono qua. Adesso mi connetto e comunico con te. Materiale semiconduttore che c'è qua. Ho il brivido nella schiena a tutta velocità. Adesso che sono dentro io mi divertirò. Tra un relè e un altro io salterò. Adesso che sono dentro mi farò il bagno nello stagno. Gocce di stagno. Benji.